37. La notte avvolgeva l'isola di Montreal, la città, l'accampamento fuori dalle mura. Una civetta lanciava richiami attraverso i vapori che salivano dal fiume. Dall'interno della tenda Guy poteva scorgere un quarto di luna appena offuscata dalle nuvole. Era seduto al tavolo da campo, alla luce fioca di una lampada, e si massaggiava il collo indolenzito. Osservò la propria ombra sulla tela incerata. Appariva storta e deforme. «Vostra ombra è lorda, lei va a distaccarsi!» Nella testa il grido della civetta si mescolò alle parole della fattucchiera. Guy allungò una mano, come ad afferrare la propria sagoma. Senza pensare, estrasse l'amuleto che la strega gli aveva venduto. Dal giorno di quell'incontro l'aveva portato sempre in tasca, per pura superstizione. Lo depose sul tavolo, sotto la luce spiovente del lume a olio, e a un tratto si sentì ridicolo. Con un mezzo sorriso pensò che un po' di fortuna in fondo l'aveva portata. Ora avevano un prigioniero famoso, il grande Ethan Allen, chiuso nel recinto e ben sorvegliato da guardiani fidati, gli ultimi rimasti. Guy sospirò e tornò serio. Se n'erano andati tutti, gli scozzesi, i Mohawk. Era solo, davanti alla decisione da prendere. Significava scegliere per sé, ma questo non rendeva le cose più facili. Fort Niagara o la Mohawk Valley? O magari restare lì, aspettando che l'armata ribelle spuntasse sulla riva del fiume. Un'attesa senza senso. Le intenzioni di Carleton erano evidenti. Il governatore non aveva alcuna intenzione di difendere Montreal. Non l'aveva mai avuta. Ogni decisione era servita soltanto a prendere tempo e a sbarazzarsi di loro. Si sarebbe ritirato a Quebec, dove poteva contare sull'appoggio della flotta. Guy sentì che non era più un sasso a schiacciarlo, ma una valanga, un'intera montagna gli crollava addosso. Il collo era rigido e contratto. Riprese a massaggiarlo, forte. Come l'aveva chiamato la fattucchiera? Il nido di Bandoka. Certo, la sfortuna. Scacciò il pensiero di quella donna e prese a rileggere la missiva per il ministro delle colonie. Aveva elencato nel dettaglio le questioni territoriali in sospeso e le violazioni compiute dai nuovi coloni ai danni degli indiani. Scrivere gli riusciva bene, ma riguardando il foglio ebbe la sensazione che fosse la sua condanna all'oblio. L'aveva persino firmata. Si mise in piedi e avanzò nella penombra, le spalle curve. Non bastava il torcicollo, c'erano anche i pidocchi a farlo impazzire. L'accampamento ne era infestato. Si affacciò all'uscio della tenda e scrutò ancora la notte. Spedire quella missiva era un atto di abdicazione. Gli chiedevano di comunicare al governo le questioni aperte nella valle del Mohawk, perché altri potessero porvi rimedio. Per lui era in serbo la stessa sorpresa toccata a Klaus, messo da parte dopo anni di onorato servizio. Il tedesco si era chiuso in un mutismo accanito, anche se qualcuno sosteneva di averlo sentito imprecare nella sua lingua durante il sonno. Maledizioni all'indirizzo di Carleton e di Campbell, con ogni probabilità. Guy sedette sulla branda, la testa tra le mani. Avrebbe voluto la moglie accanto, sentire la sua mano calda sciogliere con un massaggio la tensione. Gli mancava, e gli mancavano le figlie. Doveva pensare anche a loro, rimaste a Oswego. Tra le labbra formulò una preghiera per l'anima di Mary e chiese a Dio di proteggere le bambine. Tornò al tavolo, penna, calamaio e tampone, il bastoncino di ceralacca e il sigillo di Sir William. Se l'avessero spodestato, l'avrebbe tenuto come ricordo. Lo rigirò tra le dita, rappresentava lo stemma del patriarca. Due indiani reggevano uno scudo con tre conchiglie al centro. In basso, il motto del vecchio. Deo regique debeo. Sono debitore a Dio e al re. Guy si bloccò. Gli occhi corsero al pendaglio della strega mussulà. Una conchiglia. Non era la coincidenza dargli la pelle d'oca, ma ancora l'eco delle sue parole. L'uomo che attraversa il mare porta Bandoka, ma porta anche soluzione. Campbell veniva dall'Inghilterra. La soluzione che portava non era la richiesta del ministro. La soluzione era attraversare il mare. Guy trasalì. L'idea si conficcò nella mente tanto da cancellare il dolore al collo. Tagliare la radice du mal. Riprendersi le nomine, con l'aiuto di Dio e per volere del re. Volete portare la lettera a Lord Dartmouth di persona? Daniel Klaus formulò la domanda a occhi sgranati, le mani artigliate ai braccioli della sedia. La reazione di John Butler fu più compassata. Il vecchio capitano non mosse un muscolo, ma era evidente che teneva le orecchie tese. Guy Johnson guardò prima uno, poi l'altro. Aveva la faccia di chi non ha chiuso occhio, ma per la prima volta da settimane appariva determinato. Si trovavano sotto la sua tenda. Guy aveva convocato gli altri due solo a metà mattina, per non allarmare nessuno, nemmeno i diretti interessati. Non voleva che una spia di Carlton venisse a conoscenza delle sue intenzioni. Faceva caldo e l'attività al campo languiva. «Avete inteso bene, signor Klaus», disse Guy, «e in quell'occasione chiederò udienza a sua maestà per sollevare la sua attenzione sulla nostra famiglia. I Johnson lo servono con fedeltà da più di 30 anni e non può negare quello che ci spetta di diritto. Mi riferisco, è chiaro, alle nomine a commissari per gli affari indiani». Dopo giorni di umore nero e insulti biascicati tra i denti, il tedesco reagì. «Sono 3.000 miglia di oceano e l'inverno incombe». Guy annuì, senza scomporsi. «Non c'è tempo da perdere, infatti». Butler guardò il fondo del cappello che teneva in grembo. «Nessuno di noi conosce Londra, tantomeno i meandri di corte. La nostra fortuna è qui in America». «Lo so bene, capitano Butler», rispose Guy, «ma al momento sembra essersi esaurita. Senza nomine non possiamo più amministrare gli indiani. Nessuno ci difenderà. Il nostro nome cadrà nell'oblio. Sir William non si sarebbe mai piegato a una fine così indegna. Io dico che bisogna tentare». «Ci vogliono mesi, anni, per ottenere un'udienza dal re», obiettò Klaus. «È vero, ma noi porteremo a sua maestà un dono. E a chi porta doni è difficile negare accoglienza». I due gentiluomini fissarono Guy perplessi. «Il capo dei ribelli, signori, è l'uomo che ha preso Ticonderoga e noi abbiamo preso lui. Lo trascineremo in catene ai piedi di Giorgio III». Klaus si profuse in un sorriso maligno. «Come Vercingetorige davanti a Cesare. Questo è un colpo di genio, signor Johnson». «Con tutto il rispetto», intervenne Butler, «ha piuttosto l'aria di una puntata alla cieca». «Forse lo è, capitano», rispose Guy, «ma non credo che abbiamo molto da perdere». «Il commissario Johnson ha ragione», disse Klaus. «Tutte le strade sono sbarrate». «È chiaro che dovremmo portare con noi degli indiani», rispose Guy. «Qualcuno che parli a nome di molti e possa impressionare la corte». Il tedesco rifletté ad alta voce. «I nostri sachem se ne sono andati». «Abbiamo Joseph Brent», suggerì Guy. «L'unico che non ci abbia ancora abbandonati. È un capo di guerra e parla inglese. E non dimenticate il piccolo Davide che ha abbattuto Golia. Peter Johnson sarà il nostro passepartout per il nome che porta». Gli occhi di Klaus si riaccesero. «Abbiamo una delegazione indiana. Non resta che trovare una nave». Si voltarono entrambi verso il vecchio irlandese. «Mantenete le vostre riserve, capitano?» John Butler si alzò con un movimento energico e fece un passo verso Guy. «Ascoltatemi bene, Johnson. Sarò molto sincero con voi. Io ho imparato una cosa da Sir William. Senza gli indiani noi non siamo niente. Loro sono la nostra forza, la nostra garanzia. Gli indiani non guardano alle nomine, ma alle facce. A Londra non troverete la soluzione ai nostri guai». «Non volete essere della partita, dunque?» Il tono di Guy era rammaricato e sincero. «Mi dispiace», rispose Butler. «Io e mio figlio abbiamo deciso di andare a Niagara. Questa guerra sta prendendo una brutta piega. I Seneca hanno più guerrieri di ogni altra tribù ed è loro che bisogna convincere, non qualche cicisbeo londinese, con rispetto parlando». Seguì un momento di silenzio. Poi Butler calcò il cappello in testa e porse la mano agli altri. «Buona fortuna, signori. Dio vi assista». Lo guardarono allontanarsi, nella piena luce del giorno. «Non avete insistito molto per convincerlo», disse Klaus. «Aveva già fatto la sua scelta. Forse è più giusto così». Guy si risedette al tavolo e distese le gambe. Il tedesco lo incalzò. «Che facciamo adesso? Le nostre famiglie? Non avrete intenzione di lasciarle a Oswego?» «No, di certo. Bisogna reclutare una scorta e andare a riprenderle. Vi affido questo incarico, signor Klaus». Il tedesco si lasciò cadere sulla branda. Le novità della mattinata l'avevano provato. «E voi?» «Io andrò a Quebec a spendere gli ultimi soldi del dipartimento», disse Guy. «Ci servono una nave, un capitano e un equipaggio affidabili. Farò in modo che al vostro ritorno troviate un trasporto rapido per raggiungermi. Vi serve qualcuno che vi copra le spalle, signore?» L'irlandese annuì tra sé, mentre versava liquore in un paio di bicchieri e ne passava uno a Klaus. «Ho un ottimo guardaspalle, Joseph Brandt, e ne consiglio uno a voi, Philippe Lacroix. Il suo nome incute rispetto lungo tutto il San Lorenzo». Guy fece tintinnare il bicchiere contro quello del tedesco. «A Re Giorgio e al nostro viaggio!» Klaus trangugiò, senza dire nulla, stretto tra l'entusiasmo e l'apprensione.